Abbiamo qui i nostri microfoni l'autore del libro Quello che è stato, Mimmo Raffaele, regista, scrittore e sceneggiatore. Ciao Mimmo e grazie per essere qui con noi a raccontarci del tuo romanzo. Ciao Virginia, grazie a voi. Il tuo romanzo è uscito a ottobre 2020 e io vorrei proprio iniziare su una dalle prime pagine che tu scrivi. E tu scrivi: questo è un romanzo, un'opera di fantasia, ma come ogni opera di fantasia nasce dalla realtà. Ciò che è inventato non è mai accaduto, ma sarebbe potuto accadere. Ciò che è reale è accaduto davvero, ma il più delle volte non sarebbe dovuto accadere. Ecco, così tu apri il tuo romanzo che pagina dopo pagina ci fa un po' tornare indietro nel tempo. Ma partiamo da questo intreccio tra fantasia e realtà del tuo libro. Ecco, se vuoi dirci un po' cosa c'è di reale nel libro e un po' raccontarci, insomma, com'è stato scriverlo. Guarda, quello che chiedi è proprio la formula del libro. La formula del libro è proprio raccontare la storia, quella con la S maiuscola, attraverso una o più storie con la S minuscola, cioè di personaggi inventati. E l'idea è proprio di mescolare continuamente la realtà e la finzione, però sempre sul binario della realtà, cioè in tutto quello, lo sfondo sul storico in cui si muovono i personaggi è assolutamente reale. Io ho fatto addirittura delle ricerche sui quotidiane, cioè andando a vedere tutti i giornali se quel giorno lì c'era il sole o pioveva, che temperatura c'era, eccetera. Quindi è tutto lo sfondo, tutta la tela su cui si muovono i personaggi è assolutamente reale. La cosa curiosa è che molti lettori mi chiedono qual è, appunto, come te, qual è la parte inventata e qual è la parte reale. E molti sono convinti che le parti reali sono quelle inventate e quelle inventate siano quelle reali, perché purtroppo nella storia italiana del nostro paese, nel dopoguerra fino a oggi, sono successe delle cose veramente molto molto molto strane, molto difficili da credere, appunto. Insomma, partiamo un po' dal principio. Chi è Lucio? Come è nato il processo creativo di questo protagonista? Lucio è un ragazzo qualsiasi del siciliano, nato in quegli anni lì, cioè 15 anni quando il romanzo comincia, che si trova assolutamente contro la sua volontà in una situazione assolutamente eccezionale, cioè che si trova a Portella della Ginestra, dove il primo maggio del 1947, questa è una cosa assolutamente vera, e durante una manifestazione per il primo maggio il bandito Giuliano, una banda collegata però per motivi anche politici, sparò sulla gente facendo una strage, uccidendo un certo numero di persone. Ecco, io immagino, e questa appunto è la parte immaginata e non storica, che in mezzo a quelle lì ci fosse, a queste persone ci fosse questo ragazzo, e che durante la sparatoria sua madre e suo padre vengono uccisi e sua madre muore per salvarlo, perché si mette davanti e col suo corpo ferma le pallottole. Ecco, questo è l'inizio del romanzo, e da questa situazione assolutamente eccezionale in cui si trova questo ragazzo, tutta la sua vita cambia, farà un percorso che comincia quel giorno e arriva, addirittura dovrebbe arrivare ai giorni nostri, se non addirittura dopo i giorni nostri, perché questo, come avrai visto dal sottotitolo, dovrebbe essere il primo romanzo di una trilogia o addirittura una quadrilogia che parte quegli anni lì e arriva fino ai giorni nostri. Quindi si può dire che la data del primo maggio del 47 è stata un po' l'inizio di quello che poi è stato? Ma il titolo è, come si può vedere dalla grafica, la S dato è maiuscola, quindi l'ambiguità sta in stato, participio passato del verbo essere, stato inteso come stato, come nazione, come governo, come... E l'ambiguità è appunto voluta dal fatto di, perché tutto il romanzo e tutti quelli che dovrebbero venire dopo raccontano appunto di questa ambiguità, di come lo Stato italiano sia stato in qualche modo uno Stato a sovranità limitata, almeno fino alla fine degli anni Ottanta. Cioè nel dopoguerra, appunto, a partire proprio dal primo maggio del 47, la strage di Portella della Ginestra è un po' il punto di partenza di questa storia triste e sporca, di cui che, che ormai tra l'altro è dimenticata, è passata in, non se ne parla più, perché in realtà sono riusciti in qualche modo a nascondere un po' tutte le tracce, a stare a far sì che non venisse fuori bene tutto. Ecco, il problema è molto semplice, che nel dopoguerra l'Italia era un paese di confine, di cerniera tra l'Occidente e l'Oriente, cioè tra praticamente l'impero americano e l'impero sovietico. In Italia c'era un grosso partito comunista, un grosso movimento di tipo appunto che spingeva nella direzione di Mosca, e quindi da parte di Washington, cioè dell'impero americano, si è fatto per impedire che questo avvenisse, cioè che l'Italia passasse dall'altra parte. Quanto poi questo sarebbe stato possibile, eccetera, questo è argomento degli storici, ma insomma l'idea del romanzo, cioè la parte storica del romanzo, è basata su questo. E infatti nel romanzo si vede come Lucio viene spinto e stimolato per tutto il suo percorso da un bisogno quasi di vendetta verso la morte dei genitori, però il romanzo finisce nel 1950, come dicevi prima. Ma adesso cosa dobbiamo aspettarci? Ci dovremmo aspettare il seguito, riesco a scriverlo, perché non è facile. Ho cominciato a scrivere, cioè l'idea del romanzo è che il romanzo è appunto, come dice il sottotitolo, è il romanzo della storia d'Italia dalla seconda alla terza guerra mondiale. Quindi io dovrei immaginare addirittura un futuro nel quale scoppia la terza guerra mondiale. Comunque, al di là di questo, chiaramente la storia di Lucio, che all'inizio del romanzo ha 15 anni, dovrebbe essere lo rosso che attraversa tutta la storia d'Italia e fino appunto ai giorni nostri, o addirittura al futuro. E il motore di tutto questo, come dicevi tu prima, è la vendetta, cioè quello che avviene quel giorno, quel primo maggio, quando Lucio vede morire davanti ai suoi occhi padre e sua madre, è quello che poi lo spingerà per i romanzi, perché uno alla volta lui arriverà a vendicarsi quelli delle persone che poi ha visto lì, e sa delle persone che sa essere i responsabili della morte dei suoi genitori. Alla fine del primo romanzo lui si vendica del primo di queste persone, e adesso, come c'è l'ultima frase del romanzo, ora tocca agli altri. E infatti mi pare che lei finisca con la vendetta deve ancora essere compiuta, quindi ci aspettiamo che nei prossimi libri riusciamo insomma a dare una fine a questo racconto. Comunque la vendetta certo è il motore di tutto questo, però in fondo è anche il pretesto per raccontare tutto il resto, cioè che quello che a me preme raccontare appunto è raccontare la storia come solo un romanzo può raccontarla, perché siccome, come dicevo prima, si è fatto di tutto in realtà per nascondere quello che è realmente avvenuto. Forse solo la letteratura ormai, un romanzo può dire l'indicibile, no? Può raccontare quello che non si può raccontare, che non è mai stato raccontato e che però bisognerebbe che tutti conoscessero, soprattutto i giovani, i ragazzi, perché se non c'è memoria del passato non c'è futuro che regga. Quindi speriamo che i lettori siano proprio delle persone giovani. Ecco. Me lo auguro certo. Molto. Tra l'altro, siccome questo romanzo, visto che voi siete di Bologna, la terza parte di questo romanzo in realtà è un romanzo che io ho già scritto. Questo è un po' il prequel di un romanzo che io ho già scritto con mio figlio Nicola, che si chiama Ultimo Requiem. Ecco, Ultimo Requiem, che ha la stessa formula di questo, e comincia proprio con la strage della stazione di Bologna. Ed è un'altra di quei cosiddetti misteri d'Italia, di cui ancora ogni anno si dice: ah, ancora non si sa chi è stato esattamente. E qualche giorno fa era il 12 dicembre, no? È l'anniversario della strage della Banca dell'Agricoltura a Milano, e ancora oggi, nel 2020, alla televisione, se tu senti in televisione parlare di questa cosa, senti dire: ancora oggi non sappiamo chi sono i mandanti. Questo è assolutamente incredibile, impossibile, cioè non è possibile che dopo tutti questi anni non sappia, che poi non è vero, perché poi si sa benissimo, ma non si dice, non è stato mai sancito da una sentenza, da un tribunale. E questo, quindi, io quello che, se volete, c'è anche una forma di indignazione civile dietro questi romani. Ecco, io allora, se non lo dice nessuno, lo dico io. Certo, c'è anche bisogno di tanto di tirar fuori queste storie dalle ceneri, in modo che vengano anche ricordate. Che appunto nei limiti in cui si può fare è giusto anche per la memoria delle vittime innocenti, ce ne sono state tante.